Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. E anche noi liberiamo la voglia di fare con i liberi consigli per il fine settimana. Sono le 15.31 e quindi è l'ora di dare il via al nostro sabato del villaggio. Come sempre un sacco di cose interessanti fino alle 17 e poi dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Oggi, ve lo anticipo, parleremo molto di Stati Uniti. In questa puntata alla regia c'è la nostra Roberta Frisani. C'era Matteo Ramelli che per la prima volta mi sta facendo assistenza ed era preoccupato perché non mi vedeva entrare in studio. Ma no, ma non mi dimentico, ero lì davanti, stavo facendo delle cose alla scrivania. No, dai, cominciamo, siamo arrivati, è tutto pronto. Sono convinta che c'è anche da qualche parte del mondo il nostro Enrico Pagliarini e siccome oggi parliamo di Stati Uniti, lo introduciamo così. Devi perdere la testa, Detroit Rock City. Perché ho scelto i Kiss? Perché è una puntata in cui, ve l'ho anticipato, parleremo tantissimo di Stati Uniti, soprattutto la terza ora, quella di RadioTube, sarà interamente dedicata alle elezioni americane che ci saranno appunto tra pochissimi giorni. America, Detroit Rock City, questi erano i Kiss, perché so che Enrico Pagliarini ci vuole parlare di auto. Buongiorno Enrico. Buongiorno a Come tutti. Ti paiono questi Kiss per iniziare? Non l'avevo mai sentita questa canzone dei Kiss. No, bella, molto bella. Bella, sì, bella. Detroit Rock City, anche perché dice: sei un po' nervoso, un po' teso. Il sabato sera l'unica luce che vedi è quella della radio. Senti questa canzone, capito, sull'automobile. Vedi che io sono una che ci pensa. Che sì, ci sì. penso quando mi dici che vuoi parlare di un tema e ti trovo la canzone giusta. Sì. Ma guarda, anche io ho pensato molto, perché dopo che mi hai detto appunto il tema, ho pensato a tante cose. Allora, la prima è che siamo un po' tutti figli degli Stati Uniti per vari motivi. Sì, infatti quando ho detto, "Bah, Enrico, guarda, il tema di questa settimana è l'America", diciamo che parlando di tecnologie puoi spaziare dove vuoi, sì, non è che... Sì. Ci sono tante considerazioni positive, perché ovviamente gli Stati Uniti ci hanno offerto tanto di buono, però ci potrebbero essere anche alcune considerazioni, se non proprio negative, che comunque ci fanno spuntare qualche punto di domanda, perché pensate che ormai abbiamo degli strumenti in mano, che sono gli smartphone, che vivono grazie a qualcosa che arriva dagli Stati Uniti. Software, Apple e Android, quindi Google, che dominano il mercato, sono americani e loro ci guidano di fatto nelle scelte. Poi che vengano prodotti in altri paesi, diciamo, l'hardware conta molto poco, ormai tutto quello che conta è il software. C'era uno che diceva: software is eating the world, il software si sta mangiando il mondo, perché tutto va con il software. Anche le automobili stanno diventando una sorta di cosa che funziona grazie al software. C'è chi dice, sempre a proposito di frasi fatte che però calzano molto bene anche nel tema di oggi, che l'automobile, o ancora meglio the dashboard, quindi il cruscotto dell'automobile, è il nuovo smartphone. Dashboard is the new smartphone, perché le automobili stanno diventando sempre più piene di software. E parlando degli Stati Uniti, devo dire che anche in questo caso gli Stati Uniti guidano anche perché c'è chi ha coraggio di tagliare con il passato. Pensiamo a Elon Musk e tutto quello che sta combinando con Tesla. Ha detto: ci vogliono macchine elettriche sempre connesse, che si aggiornano di notte, magari alla mattina ti trovi un'auto con una funzione nuova, che è una funzione software che nella notte si è aggiornata. Basta che il volante sia uguale, i pedali siano uguali, sì, che non cambiano i comandi, ok. Per adesso sì, però perché... vediamo. Sai come quando cambia c'è l'aggiornamento del tablet o dello smartphone che a volte ti spostano qualcosa? Ecco, in auto meglio di no. Sì. Sì, devo anche dire, poi finiamo con tutte le considerazioni, devo anche dire che l'industria, tutto ciò fa molto bene all'industria dell'automobile, perché sia gli europei ma gli stessi americani dell'industria dell'automobile tradizionale, giapponesi, insomma un po' tutti, rappresentano un mondo un po' vecchio, sono un po' lenti e un po' vecchi quelli dell'automobile, anche proprio nelle loro organizzazioni aziendali, e anche loro si stanno ripensando, devono cambiare, però devo dire che sono molto molto molto lenti. Vogliamo allora svelare com'è nata la nostra conversazione pre-trasmissione che facciamo sempre, sì, l'ora di pranzo? Allora, tu hai iniziato dicendo... Ti ho sgridato. Ecco, dillo. Sì, sì, no, ti ho sgridato dicendo tu dovresti avere il viva voce in automobile, invece tu ti ostini a usare un auricolare che magari non è neanche Bluetooth. No, infatti non è neanche Bluetooth. Cioè col però filo è rosa, che si aggroviglia. È carino, è rosa. Vabbè, però... No, prima, allora, primo consiglio. Allora, diciamo che le automobili stanno vivendo un momento di ripresa, perché se noi guardiamo ai dati di pochi giorni fa, il mese di ottobre ha registrato un più 10% nelle vendite. Nei primi 10 mesi dell'anno sono state vendute quasi 1.600.000 autovetture in Italia, con una crescita del 16%, quindi è un mercato che sta tornando a crescere già appunto da qualche mese. Quindi ci sono alcuni milioni di italiani che in qualche modo sono coinvolti in questi acquisti, perché sappiamo che quando si acquista un'automobile si discute con gli amici, si discute in famiglia, insomma è un acquisto sempre pensato. Allora, alcuni consigli. Primo, ma questa dovrebbe essere la base, anzi mi stupisco che non sia obbligatorio per legge o non sia integrato ormai in tutte le automobili: viva voce Bluetooth. Necessario, cioè non si può fare senza, insomma, oltre che è molto comodo è anche molto sicuro, ma oltre che sicuro ci evita anche magari di prendere la multa. Ma una come quindi, me che ha una macchina anzianotta? Allora, ci sono degli ottimi sistemi che si possono installare dopo l'acquisto dell'auto, oppure anche su un'auto vecchia, che costano poche decine di euro. Tipicamente, diciamo, i più comodi sono quelli che si installano attaccato all'aletta parasole, e che quindi sono molto vicini alla nostra bocca, insomma, quando parliamo, e sono autonomi, hanno una batteria. Ci sono anche quelli che si collegano alla presa di corrente, che una volta si chiamava accendisigari, oggi però non ci sia, sì, però ormai è la presa di corrente che c'è sull'automobile, e quindi si può anche fare un intervento posticcio sull'automobile. Però devo dire, questo insomma è un acquisto, ci deve essere. Cioè, fatevelo regalare dal concessionario, così come vi dovete fare regalare dal concessionario la radio digitale DAB. Okay? Tu sei un grande sostenitore della qualità della radio DAB, giustamente. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anzi, io in questi giorni sto ascoltando alcune cose nuove che ci sono sulla radio DAB che altri non possono sentire. Certo. Poi, che cosa chiedere tutte le volte quando... Adesso non so quanto uno pensa e quanti schemi uno si fa, però secondo me uno dovrebbe fare un po' di schemi dicendo: su questa automobile c'è questo che mi è utile, fare un po' uno specchietto e poi fare una valutazione pro e contro. Un'altra cosa che secondo me ormai deve esserci, che è accoppiato ormai al Bluetooth, perché al Bluetooth, se si ha il sistema Bluetooth, questo serve anche per collegare lo smartphone al sistema audio dell'auto. Certo. Quindi ascoltare, che ne so, un podcast di Radio 24 quando va un programma al quale noi non siamo interessati, magari ci riascoltiamo qualcos'altro dal nostro smartphone. Però se vogliamo fare un passo in avanti, dovremmo prendere un'automobile che ha già uno dei sistemi che replicano il sistema operativo dello smartphone. Mi spiego. Esistono due mondi, esatto, esistono due mondi. Uno è CarPlay, che è di Apple, e l'altro è Android Auto. Che cosa fanno questi sistemi, che sono preinstallati su un certo numero di auto già oggi, lo saranno sempre di più nei prossimi mesi? Di fatto replicano molte delle funzioni del nostro smartphone, dalla chiamata, cosa che è molto semplice, le mappe, tutta una serie anche di app che sono pensate proprio per essere utilizzate sul cruscotto dell'auto. Quindi è proprio come se sul cruscotto dell'auto noi avessimo lo smartphone replicato con tutte le nostre cose. Tu hai detto Apple e Android. Siccome ci sono alcuni ascoltatori affezionati che al 349-238-6666 SMS e WhatsApp, perché prima non l'ho detto, spesso ci scrivono: non citate mai Windows Phone. Noi diciamo: sì, ma Windows Phone è molto piccola la gara quota. Finita. Sì, considerate che sul mercato il 90, praticamente sostanzialmente il 99% del mercato lo fa Android e Apple. Mi spiace, ma Windows Phone ha perso la gara, così come BlackBerry. Rimangono applicazioni aziendali, rimangono in un mondo prettamente aziendale per magari alcune applicazioni, però sul mercato consumer, gara persa, finita, quota di mercato pressoché inesistente. Questo lo dice il mercato. Sì, perdonami, ti ho interrotto, ma so che tu volevi parlare anche di sicurezza. Sì, allora, questi sistemi servono anche per la sicurezza, perché il Bluetooth è comunque un sistema che ci rende la vita in automobile più sicura. No, un altro capitolo al quale secondo me bisogna fare attenzione quando si acquista un'automobile riguarda i sistemi di sicurezza attivi. Allora, la cintura di sicurezza e l'airbag sono sistemi di sicurezza passivi, cioè una volta che, speriamo di no, ma se uno si scontra contro un altro veicolo oppure attaccato a un albero, questi cercano di proteggerci. Se state allora, guidando, sto facendo io gli scongiuri per voi, perché sì, ho le due mani libere. Però succede. Oggi su un discreto numero di automobili, anche di fascia medio e medio-bassa, ci sono dei sistemi che sono molto spesso optional, ma sulla fascia alta del mercato sono ormai sistemi di serie, che vanno sotto il capitolo di sistemi di sicurezza attivi. Il più comune e forse anche il più utile è il sistema di frenata di emergenza, che ha una sorta di radar in testa al veicolo, controlla il veicolo che ci precede e in caso che noi siamo distratti oppure non facciamo in tempo a schiacciare il pedale del freno, frena automaticamente. Molto efficiente e anche molto efficace quando appunto ci evita di tamponare, ad esempio. Sono sistemi che non costano tanto, giusto per fare un esempio, ci sono delle vernici metallizzate, perlate, insomma vernici particolari che molti scelgono sulla propria automobile, che costano di più. Ah, quindi nel mio specchietto magari meno vanità e più sicurezza, esatto, se uno deve scegliere. Sì, sì, stiamo parlando di sistemi che costano 500, 700, 1000 euro, insomma optional, che non sono impossibili, però sono molto sicuri. Il sistema di frenata d'emergenza è un sistema che appunto ci permette di evitare incidenti o anche una piccola tamponata che poi ci crea il problema con la carrozzeria, dobbiamo andare a portare l'auto e poi soprattutto ci cresce il premio dell'assicurazione. Certo, quindi certo, è un sistema molto molto utile e devo dire non è ancora popolarissimo, perché non è su tutte le automobili, nemmeno come optional, però comincia a esserci, ripeto, anche su modelli medi e medio-bassi, quindi è un optional da tenere in considerazione. Poi la lista è infinita, ci sono questa mattina guardavo un'automobile che aveva nello specchietto laterale una luce rossa che ogni tanto si accendeva, e quello è un sistema, e anche quello comincia ad essere abbastanza diffuso, che ci avvisa se un veicolo si avvicina sulla destra o sulla sinistra, ma tipicamente sulla destra, magari certo, è in sorpasso, e ci avvisa che è nell'angolo cieco. Sapete se voi guardate dallo specchietto non è che vedete bene tutto, magari c'è una macchina che si è affiancata a voi e voi non ve ne accorgete e uscite dalla corsia. Ecco, quello ad esempio è un altro sistema che può essere utile. Poi c'è il sistema per mantenere la macchina all'interno della carreggiata, perché tiene conto delle strisce da una parte e dall'altra. Qui bisogna stare attenti, perché se per caso entriamo in una parte di strada dove hanno appena asfaltato e ancora non sono state fatte le strisce, la macchina impazzisce. Però tutto quello che stiamo dicendo sono sistemi che ci assistono, non è che ci sostituiscono. Quindi le auto a guida autonoma ne passeranno di anni, anche se non ne passeranno tantissimi. Ecco, grazie Enrico per essere stato con noi. 2024, ciao. Ricordiamo il podcast a proposito. Grazie Enrico, al prossimo sabato. Tutti. Noi ci ritroviamo tra poco, traffico, poi siamo ancora insieme. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta il sabato del villaggio. Ed è il momento di andare a scoprire, come ogni settimana a quest'ora, le nuove tendenze in fatto di cibo, che è uno dei grandi piaceri della vita ai quali ci dedichiamo ogni sabato al sabato del villaggio, e quindi chiamiamo in causa e diamo il benvenuto al nostro Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao a tutti. Allora Davide, grande tendenza di questo periodo e della settimana qual è per te? Ma te lo posso dire magari recitando un pezzo di una poesia, c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico. Ok, qualcosa di nuovo, anzi di antico, sono, ok. Sono le botteghe che si trasformano in ristorante, quelli che io già da anni chiamo dietro al banco. È una tendenza che è storica, nel senso che in Puglia da sempre le macellerie si chiamano fornelli, perché? Perché compri la carne e puoi anche mangiarla e te la arrostiscono. Però diciamo che col tempo c'è stata una grande trasformazione moderna e ormai in tutte le città italiane pescherie e macellerie da botteghe si sono trasformate in ristoranti. Bene, te ne do una sfilza, per esempio c'è a Milano la pescheria Spadari. Spadari a Milano è storica e si può mangiare. Gallina a Torino, Sorduilio a Roma, la stuzzicheria di mare a Livorno. E sono, diciamo, nate tutte negli ultimi anni, mentre a Milano ce n'è una storica, forse che ha fatto tendenza, che si chiamava Claudio. Questa la conosco. Claudio è stata forse l'antesignana delle pescherie che si sono trasformate appunto in ristorante. È tipico questo delle macellerie e delle pescherie, perché? Perché veramente c'è il prodotto, c'è un prodotto vivo e quindi non è che lo devono andare a acquistare fuori. Ma ora poi, e poi torneremo alle macellerie, ma si è trasformato, ad esempio a Milano in Brera c'è un negozio di frutta e verdura che si chiama l'Orto di Brera, il quale oggi con il boom della cucina vegetariana sicuramente ha capito bene la tendenza e si è trasformato, oltre che a vendere frutta e verdura, anche in piatti molto semplici che toccano appunto queste due, diciamo, queste due specialità. E quindi è un divenire, ma c'è anche una tendenza dei grandi marchi di vendere oltre il loro prodotto anche cibo. Perché questo? Perché il cibo ormai, come posso dire, è il diorama di questo momento, quindi tutti vedono nel cibo un boom e tutti, se magari perdono qualche colpo sulle vendite, e allora eccoti il cibo o per attirare gente. Ad esempio la catena di Moleskine, che appunto è nota, certo, è nota per Chatwin, quindi nota per i taccuini, e ora c'è un bar dove si mangia anche, e quindi si comprano taccuini e si mangia. Ad esempio anche le biciclette bianchi in giro per il mondo, ormai Bianchi non vende solamente biciclette, ma c'è un bar attrezzato dove si può anche mangiare, lo stesso Piaggio di motociclette, quindi è un po' una tendenza, devo dire, che sta dilagando, forse anche troppo. E devo dire che ci sono anche cose così molto rabberciate. Però torniamo alle macellerie, perché le macellerie forse sono quelle che hanno più storia su questo settore. E allora addirittura c'è una macelleria, io l'ho già citata altre volte per altri motivi, addirittura una macelleria che è diventata ristorante stellato, che è i Fratelli Damini ad Arzignago. Mm-hmm. Oppure c'è anche Motta in Zago, in provincia appunto di Milano. E a Milano c'è Pellegrini, che anche questa è una storica macelleria, dove si può mangiare a mezzogiorno e qualche volta anche alla sera. Quindi, come dicevo, è veramente un dilagare, ma io ne ho citate una decina, ma potrei continuare iosa, perché prima, diciamo, un fenomeno che è nato nelle grandi città, oggi invece si sta sviluppando un po' ovunque, proprio per anche necessità economiche, e soprattutto devo dire che questa tendenza è molto interessante per il recupero dei prodotti. Mi spiego, un negozio di ortofrutta sicuramente a fine giornata a fine settimana ha molti prodotti che altrimenti finirebbero nel pattume, certo, come si dice, certo. Però se si recuperano giorno giorno, e anche qui c'è un'esperienza interessante a Milano, dove in via Pontevetero c'è un noto ortofrutta pugliese storico a Milano, il quale cosa ha fatto? Ha aperto un chiosco nella piazza del Carmine, dove si fanno frullati, si vendono insalate, quindi è un modo anche questo per recuperare. Credo che sia come posso dire, possa dare anche una qualche mano a buttare via meno prodotti di quello che succede solitamente. E questo fenomeno è sempre più in fermento. Ecco, il problema è questo, che visto questo boom, molte sono cose improvvisate. Ecco, mi sembra che tu ci stia suggerendo soprattutto botteghe tradizionali che hanno aggiunto, perfetto, la cucina. Perfetto. Ho capito? È proprio questo il fenomeno, perché sai, sulle pescherie è storico, quindi ci sono le pescherie, c'è il pesce, le macellerie, c'è la carne, ma tanti altri posti dove nascono, secondo me, sono anche date dal momento, date dalla tendenza e date dalle esigenze anche di far cassetta. Ecco, su quelle io andrei molto molto più cauto. Invece su questi, diciamo, settori tradizionali, io direi che si può andare anche con una certa sicurezza, anzi, probabilmente c'è una sicurezza di avere un prodotto molto fresco, perché certo, insomma, la pescheria ogni mattina e la macelleria ogni giorno rinnova quello che c'ha in, diciamo, dentro il negozio, per cui è sempre interessante poterlo andarlo a mangiare. Davide, so che questa settimana hai anche una chicca per noi, perché hai scoperto qualcosa che ci vuoi segnalare. Una chicca a Roma è un locale che si chiama, un ristorante che si chiama Pipero Rex. Il Rex è un vecchissimo albergo romano nelle vicinanze della stazione, e dove c'è un ristorante che sta veramente crescendo. Pipero è il, diciamo, il proprietario ed è un famosissimo sommelier, mentre c'è in cucina un giovane chef che si chiama Luciano Monosiglio, che è molto famoso per la carbonara, molto famoso anche per una tecnica della carbonara, ovvero sia, se tu vuoi andare a mangiare 80 grammi di pasta o 100 o 150 o 130, lui ti fa la carbonara, diciamo, con questo tipo di peso, quindi è chiaro che ognuno ordina in base alle proprie voglie di quando si siede a tavola, non è che deve ordinare un piatto completo che poi magari avanza. Ma devo dire una volta che vado a mangiare però la carbonara a Roma come si deve, diciamo che anche un po' più di 80 facciamo. Ma tu quanti grammi di pasta mangi solitamente? Io non la mangio tutti i giorni, la mangio molto poco, però di solito 60-80. Ah, ecco, 80, ma vedi, tu ti fermi a 80. No, però se, allora, siccome non la mangio veramente mai, perché devo stare un po' attenta, una volta che vado, no, dai, almeno 100 li ordiniamo, no? Certo, dai. Almeno 100 grammi, 100 grammi in barba a tutti i dietologi. Dai, sì, 100, quella volta che grammi, si va al ristorante, sì, la mangiamo per bene. Sì, ma questo ti aggiungo anche, perché non è solamente carbonara, ovviamente, cioè, in questo posto, anche molto vario, perché come ti dicevo, questo chef è molto interessante, la sua creatività, ma non è eccessiva. Ad esempio un raviolo con un ripieno di pomodoro, con provola affumicata e pesto in polvere. Ecco, questo è un altro piatto veramente interessante, sempre rimanendo sui primi piatti, anche la linguina, una linguina con, diciamo, sapore di mare e paprika affumicata. Ma poi si mangiano tante altre cose, io ne ho citate alcune, oppure anche chi ama il pesce e chi ama lo sgombro. Io amo molto lo sgombro, anche se per molti è un sapore molto forte. Però lo sgombro con wasabi, ecco, diventa escalogno, se diventa un'altra cosa, quindi, diciamo, questa tendenza di questo sapore molto forte viene un po' affievolita. Beh, mi piace molto molto molto questo consiglio, anche perché poi spesso ci scrivono: mangiare a Roma è rischioso, nel senso che ci sono tantissimi ristoranti, talmente tanti che è difficile scegliere, quindi sono molto contenta quando ci segnali queste chicche. Davvero, sì. Devo dire che Roma secondo me ha un numero di trattorie importanti, cioè a Roma c'è ancora la tradizione della trattoria, che sì, qualcuna era inventata, però c'è una tradizione storica, e quindi io dico che a Roma, cioè, scegliere una trattoria, si può sbagliare sicuramente, per carità, ma ce ne sono una decina di trattorie a Roma in cui si può andare con una certa tranquillità anche sul prezzo. Io ho ad esempio una trattoria che ho sempre amato, e che è Chinor Mattatoio, che è una storica, anzi storicissima, che magari in questo momento è un po' fuori moda, perché oggi quello che va di moda è avere una location molto trendy design, e questa invece è rimasta tale quale, con un albero davanti, veramente, che d'estate fa anche molto ombra, e però dentro la cucina è rimasta veramente di grandissima qualità, soprattutto sui piatti tradizionali romani, quindi quelli belli, insomma, belli che si mangiano, come dici tu, una volta che vado a Roma. Una volta che vado voglio mangiare voglio le cose. Voglio mangiare la coda alla vaccinara, per esempio. Certo. Insomma, tanto per dire. Grazie a Davide Paolini per essere stato con noi anche in questo Sabato del Villaggio. Ci risentiamo alla prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao Davide, noi ci risentiamo tra poco, presto c'è il giornale radio delle 16 adesso, e poi saremo ancora insieme. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Il sabato del villaggio. Ed eccoci ancora insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E vi ricordo, nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete. E dalla rete, quella di RadioTube sarà una puntata tutta dedicata agli Stati Uniti, a pochissimo dall'elezione del nuovo presidente. Vi ricordo tutte le coordinate per trovarci, per tenerci compagnia, visto che siamo qui in diretta con voi e per voi: 349-238-6666 per i vostri sms e anche messaggi WhatsApp. E poi c'è sempre il mio account di Twitter, chiocciola Marta Cagnola, e l'hashtag cancelletto ISDV come il sabato del villaggio. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora di questo sabato del villaggio, anche qui Stati Uniti. E non solo, ma anche ad esempio Gran Bretagna nelle nuove serie TV da non perdere. Novità dagli Stati Uniti e fare shopping come se fossimo a New York con Maria Luisa Pezzali. E poi i libri del momento con la nostra Alessandra Tedesco. Ma prima, come di consueto, i consigli per il fine settimana al cinema. Guardavo spesso quella coppia perfetta. Erano l'incarnazione del vero amore. Ho voglia di cominciare una vita nuova. Io l'ho vista. L'ho vista dal treno. Sì, era con un uomo. È lei questa? Mi può dire dove si trovava venerdì sera? Sono andata a trovare mio marito. Vuol dire suo ex marito. Rachel sta lontana dalla mia famiglia. Non sono più la ragazza di una volta. Perché è qui? Perché ho molta paura di me stessa. E questo è uno dei film che sono usciti questo fine settimana al cinema, un film attesissimo, La ragazza del treno, tratto da un libro molto molto famoso. Ma varrà la pena andarlo a vedere oppure no? Lo chiediamo come sempre al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. La ragazza del treno vale sempre il solito discorso, la solita premessa. Se vi siete innamorati del libro, qui c'è un libro di grandissimo successo alle spalle, dimenticatelo. Se andate al cinema, dimenticate i paragoni, dimenticate di accostare le due storie. Lì ci sono centinaia di pagine per raccontare nel dettaglio, qui c'è un'ora e mezza per raccontare una storia per immagini. Detto questo, cosa rimane? Rimane che il film è molto strutturato come il libro, con questi continui flashback e flash forward. La storia, forse qualcuno di voi la ricorderà, è quella di una donna che non ha superato il divorzio. Questa donna prende tutti i giorni il treno avanti e indietro, guarda dei finestrini, vede le persone, si fa i suoi castelli in aria e soprattutto la sua attenzione si posa su una coppia giovane e esternamente perfetta. Sembrerebbe una coppia inossidabile, ma un giorno da quel finestrino del treno la protagonista Rachel vede che la ragazza di questa coppia è insieme a un altro uomo, e lì chiaramente il suo, diciamo, presente, il suo passato, il suo sogno e la sua realtà si mischiano e diventa un po' una sorta di viaggio onirico attraverso questo treno. Emily Blunt è la protagonista del film, girato da Tate Taylor. Dicevo, struttura abbastanza analoga a quella del libro, e forse questo è un mancato tradimento che nuoce un po' al film, che rischia di rimanere poi anche un po' imbrigliato in certi stereotipi, è un po' laccato, quasi ad andare a cercare un pubblico mainstream su una storia che invece poteva avere delle sfumature forse di regia un pochino più acute. Quindi da vedere, ma senza paragonarlo assolutamente al libro. C'è un altro film questo fine settimana in sala di cui si parla moltissimo. Il titolo è singolare ed è la cosa meno singolare del film, Sausage Party. Ma chi mandiamo a vedere questo Sausage Party, Franco? Ecco, brava, brava. Chi mandiamo a vedere questo film? Perché il rischio è quello di pensare che, essendo un film d'animazione, vada bene per i bambini. Non è così. Non è proprio decisamente così. E in questo è una operazione sicuramente ancora più coraggiosa, rischiosa. Tra l'altro, nel cast vocale originale ci sono gente come James Franco, Seth Rogen, Salma Hayek, Edward Norton, insomma, grandi nomi del cinema americano, per raccontare questa storia di una salsiccia in crisi esistenziale. Già qua avete capito che, insomma, le metafore si possono sprecare, che alla guida di un gruppo di prodotti del supermercato cerca di capire la verità di quello che succede a questi prodotti quando escono dalle vetrine scorrevoli del mall, del supermercato, appunto. Da una parte c'è un po' quello che abbiamo appena visto in pezzo o abbiamo visto in passato in Toy Story, cioè quello di raccontare la vita degli oggetti apparentemente inanimati, diciamo che sono davvero inanimati, ma nel cinema prendono vita quando l'uomo non c'è più. Dall'altra, appunto, c'è una serie di metafore abbastanza divertenti, che però divertono soprattutto un pubblico adulto, quindi insomma evitate magari di andarci in famiglia, però andatelo a vedere perché è sicuramente un film molto molto frizzante. Come ogni settimana ti chiedo infine un'uscita italiana. Questo fine settimana, tra le altre, c'è almeno un'uscita molto importante. Guarda, c'è un'uscita importante questa settimana, piena di film italiani, devo dire. C'è una tematica importante in questa settimana italiana, che è quella del lavoro. C'è con i ragazzi giovani che sognano un lavoro fisso che non troveranno forse mai in bici senza sella. Ma c'è soprattutto con il racconto di chi il lavoro ce l'ha, l'ha avuto per tanti anni, il lavoro fisso, e si vede sgretolare anno per anno, momento per momento, sotto i piedi le certezze e i diritti che aveva acquisito. È la storia raccontata da Michele Placido in 7 minuti, film che prende le mosse da una pièce teatrale che a sua volta prende le mosse da un fatto realmente accaduto in un'azienda tessile francese, quella di un gruppo di donne, di operaie e di impiegate che si trovano a dover firmare una sorta di diciamo nuovo accordo per una ristrutturazione aziendale. I nuovi proprietari, una grande multinazionale, chiedono una cosa: 7 minuti in meno del proprio tempo, del proprio intervallo fra un turno e l'altro. Una cosa apparentemente banale, pur di salvare fabbrica e posto di lavoro. Ma la sindacalista Ottavia Piccolo, nel cast che è pieno di grandi nomi del cinema italiano al femminile, Cristiana Capotondi, Violante Placido, una straordinaria Ambrangiolini, Fiorella Mannoia. Ecco, Ottavia Piccolo, che è più anziana delle altre e capisce forse più in profondità le cose, capisce che questi 7 minuti non sono solo 7 minuti, ma nascondono qualcosa in più. E lì il film decisamente decolla. Bella la regia di Michele Placido, che è molto a suo agio quando racconta le storie del mondo del lavoro. Lo fece sin dall'inizio con il suo Pumarò, che ricorderete. Una regia molto adrenalinica, molto legata più agli stilemi di romanzo criminale, cioè del film d'azione, camera a mano, tinte livide nella fotografia, che non al racconto teatrale. Una certa teatralità ovviamente rimane, perché il film parte da lì, ma c'è questo corpo della fabbrica che ospita tutto, che è il grande ventre in cui si sono nutriti i sogni di tante generazioni che poi sono falliti. Un film davvero importante sul nostro presente, assolutamente da vedere. E tra l'altro abbiamo parlato di 7 minuti anche con Fiorella Mannoia, che sentiremo domattina in 140 caratteri. Ha presentato il suo nuovo album, ma appunto anche questa sua prima avventura cinematografica. Franco, l'appuntamento con te è più tardi, dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao Franco. Sì, ciao Marta, appuntamento alle 18. Ci sarà Michele Placido, poi parleremo anche di Evita il musical, di un festival come Piccolo Grande Cinema, insomma tanti argomenti. Fra poco alle 18 la Rosa Purpurea. Ciao. Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato. E questa è la combattente Fiorella Mannoia, coprotagonista di Sette Minuti, di cui abbiamo appena parlato con Franco D'Assisi, Michele Placido, il regista sarà la Rosa Purpurea. Invece Fiorella Mannoia domattina, dopo il giornale radio delle 8, a 140 caratteri. Insomma, non vi facciamo e non ci facciamo mancare niente. Adesso sono le 16:15 minuti e 33 secondi, quindi è il momento di dare la linea agli aggiornamenti della viabilità e poi saremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta il Sabato del Villaggio. E siamo ancora insieme con il Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato, come di consueto, con tecnologie, di tecnologie con Enrico Pagliarini. Abbiamo parlato delle tendenze in fatto di buon cibo con il nostro gastronauta, con Davide Paolini. Ci siamo informati con Franco D'Assisi su tutti i film che sono usciti questo fine settimana al cinema. Adesso è il momento di aprire il capitolo dei libri. Ha visto questa donna per caso? Lavorava per il suo ex marito. E ora è sparita. Che cosa vuol dire sparita? Il marito dice che non è rientrata a casa la stessa sera in cui lei è scesa dal treno a Dursley. Stavo solo. Lei conosce Meghan Hipwell? No. Non l'ha mai vista? No, mai. Almeno non credo. Non sarà perché era ubriaca? Del treno, ma abbiamo appena parlato del film con Franco D'Assisi. A questo punto cosa facciamo? Riparliamo del libro? E forse sì, è il caso di riparlare di questo caso letterario di un po' di tempo fa che appunto questa settimana arriva al cinema e ne parliamo con Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Marta, io sono sempre della stessa idea, bisogna prima leggere il libro e poi vedere il film, quindi se non avete ancora letto il libro, leggete prima il libro e poi andate a vedere il film. Come ha detto Franco, leggete il libro, dimenticate il libro e andate a vedere il film, perché effettivamente è bello averli visti e letti entrambi. Io non ho visto il film, quindi non posso giudicare, però in genere ti dico che è molto difficile trasportare al cinema, diciamo, un libro, nel senso che chiaramente per una questione di tempo, per una questione di immagini, per una questione di tante cose, sono linguaggi diversi e quindi viene preso sempre uno dei tanti aspetti del libro, il libro, come sappiamo. E quindi se si legge prima il libro si ha una visione tutta a 360 gradi e poi il film accende il faro su un aspetto particolare. Se si vede prima il film, insomma, si può rimanere delusi. Però sono sicura che con l'uscita del film si tornerà anche a parlare del libro e chi non l'ha letto lo comprerà ancora. Guarda, già se ne sta parlando di nuovo. Anzi, magari c'è già la fascetta, libro ovvio. Cui è stato tratto il film. Esattamente, il libro da cui è stato tratto il film, ma è stato appunto prima l'uovo o la gallina, prima è stato un libro. È stato un caso editoriale nel 2015, adesso te la dico proprio alla maniera dei thriller. Dai. 13 gennaio 2015, ta-ta, indovina cosa è successo? Cioè fai anche la colonna sonora. Certo, visto che parliamo di film. Va bene. La ragazza del treno esce in America con una prima tiratura di 120.000 copie, pochi giorni dopo esce in Inghilterra. Una settimana dopo, che succede? Si posiziona al secondo posto in classifica in Gran Bretagna e al primo posto assoluto in America. Insomma, questo successo è diventato veramente un effetto domino, tant'è vero che questo libro ha venduto 15 milioni di copie nel mondo, 600.000 solo in Italia. Ma ci diciamo un po' la trama, perché insomma stiamo parlando di tutti gli aspetti del fenomeno libro, ma non abbiamo ancora detto la trama. Allora, lei è una scrittrice innanzitutto esordiente inglese, che aveva anche scritto una lettera aperta ai dei suoi, diciamo, compagni viaggiatori di treno, pendolari. Infatti aveva scritto sostanzialmente: tutti noi pendolari siamo un po' voyeur, prendiamo posto sullo stesso treno ogni mattina e ogni sera, insomma guardiamo attraverso il finestrino. Da questa idea le è nata l'idea del personaggio. Il personaggio, la protagonista della ragazza del treno, è Rachel, una donna insomma un po' in crisi di identità sua, insomma ha dei problemi personali. E che cosa fa? Quando prende questo treno dei pendolari, guarda attraverso il vetro e, siccome il treno si ferma sempre nello stesso posto ovviamente, inizia ad osservare una coppia di coniugi. Mm-hmm. E nella sua mente così molto fantasiosa pensa quasi che siano diventati suoi amici, pensa di conoscerli, insomma fa dei film su questa coppia di coniugi a sua insaputa, nel senso che loro non sanno naturalmente nulla, finché, mm-hmm, posso dirlo? Ma sì, dillo. Succede una cosa beh, brutta. Per forza, brutta, altrimenti brutta. Non ci sarebbe né il libro né il film. Ma soprattutto non ci sarebbe il thriller. E quindi Rachel è costretta a passare, diciamo, dall'aspetto voyeuristico, quindi solo guardare al finestrino, a un aspetto un po' più coinvolto personalmente e fisicamente in questo strano thriller, e non vi dico perché. Beh, allora, quindi, chi non avesse ancora letto il libro e volesse leggerlo prima di vedere il film, oppure incuriosito dal film, o incuriosito dalla nostra trama, assolutamente senza capo, il problema senza è che coda. Quando ci sono i thriller, ogni cosa che sveli c'è qualcuno che ti scrive però avete svelato, e non si può dire nient'altro. Però appassionati di thriller, leggetevelo. Non l'aveste ancora letto, leggetelo. Thriller solo inglesi? Guarda, allora, per par condicio, a questo punto proporrei anche un thriller italiano. Uh-huh. E all'italiana. Si intitola La confraternita delle ossa, l'ha scritto Paolo Roversi, pubblicato da Marsilio nella sezione I gialli. In realtà è a metà fra un noir e un thriller, ed è soprattutto un prequel, perché si prende il personaggio seriale di Paolo Roversi, che è Enrico Radeschi, e in questo La confraternita delle ossa si vede un po' la sua prima avventura. Diciamo, a 10 anni di distanza dal primo libro, si va a ritroso nel tempo e si vede qual è stata la prima indagine di questo. All'inizio era un aspirante giornalista, poi hacker, poi insomma collabora alle inchieste della polizia, in particolar modo con il vicequestore Loris Sebastiani, che è un coprotagonista delle avventure appunto di Paolo Roversi. In particolar modo La confraternita delle ossa è ambientato a Milano nel 2002. Un avvocato, diciamo, di successo viene ucciso in pieno centro, vicino al Duomo. Mm-hmm. E è presente come succedeva in Hillary Queen, che mentre stavano per morire lasciavano il segno, insomma, per far capire chi era stato l'assassino. Insomma, con il suo sangue la vittima disegna un simbolo, e da qui partirà l'indagine. A me piaceva tantissimo Hillary Queen, ero pazza del fantastico attore Jim Hutton. Io non lo indovinavo mai, però lui dava tutti gli indizi, io non lo indovinavo mai. No, a me piaceva lui, e tra l'altro sai che non tutti lo sanno, ma era il padre di Timothy Hutton, Jim Hutton. Ah, era, ma dai, sì, era, vedi quante cose si scoprono. Un uomo bellissimo. Mi sono distratta parlando di serie TV, poi ne parleremo ancora nel nostro Sabato del Villaggio. Che bella copertina che ha il libro che hai davanti. Parliamo di tutt'altro genere. Si intitola La libreria delle storie sospese. Io mi faccio molto trascinare dalle copertine, lo so che siamo in tanti, però quando vedo una copertina così è bella. Il libro l'ha scritto Cristina Di Canio ed è pubblicato da Rizzoli, ed è un libro vero, nel senso che Cristina Di Canio è una libraia bravissima, possiamo dirlo, che a Milano ha questa piccola libreria, diciamo quasi di quartiere, nella zona di Piazzale Lodi, che si chiama Il mio libro, ma in realtà lei la chiama La scatola Lilla, e infatti lascatolalilla.it è anche il suo blog, dove potete trovare una serie di informazioni sui libri, sugli scrittori Provare che passano a vedere subito dalla sua libreria, eccetera. E ha scritto questo romanzo molto piacevole, dove praticamente chiaramente la protagonista è una libraia, Nina, che decide di lasciare, un po' come ha fatto Cristina Di Canio, nella vita, e contro tutte le previsioni, diciamo anche economiche, finanziarie, decide di aprire una libreria in una zona non precisamente centrale della città. La storia però ci è raccontata da un'amica di Nina, della protagonista, Adele, che è un'amica insomma un po' più âgée, un po' più in là con gli anni, e che guarda Nina muoversi in questa libreria e tutte le storie che avvengono in questa libreria, anche storie d'amore. Ma soprattutto c'è una cosa molto bella che si è inventata Cristina Di Canio, e che riporta anche nella prima parte, diciamo, di questo libro, che è il libro sospeso. Cioè, in questa libreria, nel libro, E nella realtà, se tu vai e decidi di donare, cioè portare un tuo libro oppure di acquistarne un altro, lo lasci sospeso per chi verrà dopo di te. Come il caffè sospeso a Napoli. Esattamente, esattamente. Lì si faceva appunto per chi era meno in condizioni economiche meno rilevanti di altre, e in questo caso lo si fa come proprio voglia di scambiare un libro, qualcosa di prezioso, qualcosa che ci è piaciuto. Ma che bella anche questa Cristina Di Cagno, io la sto guardando sul suo sito, che bella ragazza, giovane. Anziana. Di questo tempo in cui le librerie chiudono, decidere di lasciare tutto, mollare un lavoro, eccetera, aprire una libreria è una grande scommessa. E anche questo libro, La libreria delle storie sospese, secondo me è una bella scommessa che dedico a tutti gli amanti dei libri. Bello, bello. Un ultimo consiglio ci sta? Guarda, che cosa vuoi proporci? Sono in vena di ottimismo, voglio cose belle, voglio cose che abbiano proprio la forza, che ti danno la forza. E allora ho scelto questo libro di Alex Zanardi, scritto con Gianluca Gasparini, Volevo solo pedalare, ma sono inciampato in una seconda vita, anche questo pubblicato da Rizzoli, anche molto ironico. Alex Zanardi, lo ricordiamo tutti, pilota automobilistico di Formula 1, ebbe un incidente terribile, forse si pensava che non potesse neanche sopravvivere, gli amputarono le gambe e adesso è diventato un famoso atleta paralimpico di paraciclismo, ha partecipato anche alle Paralimpiadi di Rio, infatti in questo libro ci sono delle fotografie anche delle Paralimpiadi, delle sue gare, e insomma ci racconta con ottimismo e veramente con grande ironia come da una situazione apparentemente tragica è riuscito a trovare una situazione di felicità. Un supereroe Alex Zanardi, davvero. Grazie Alessandra, l'ultimo consiglio è ovviamente quello del cacciatore di libri. È da non perdere stasera, Jonathan Safran Foer, ti dico solo questo. Accidenti. Eccomi. Quindi stasera e anche in podcast, radio24.it, anche la nuova app. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il sabato del villaggio. E rieccoci con il sabato del villaggio, l'ultima mezz'ora del sabato del villaggio così com'è, poi ci cambiamo d'abito e sarà il momento di RadioTube. Ve l'ho anticipato, con grandissimi ospiti, cominceremo a parlare delle elezioni americane, sarà un'ora dedicata un po' alla situazione negli Stati Uniti in attesa della grande copertura di Radio 24 per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Tantissimi inviati, corrispondenti sul posto, insomma abbiamo un sacco di persone che si occupano e si occuperanno di questo argomento, una copertura davvero, davvero delle grandi occasioni. Io vi dico solo che nel mio piccolo sarò in diretta con Alessio Maurizi per tutta la notte elettorale, quindi a mezzanotte alle 6. Io e Alessio Maurizi, coppia inedita, ma vi promettiamo, faremo scintille. Anche ovviamente in collegamento con i nostri studi di New York, con Mario Platero, appunto con i nostri inviati, con un sacco di esperti, vi terremo compagnia per tutta la notte elettorale. Quindi abbiamo anticipato la puntata di RadioTube dedicata agli Stati Uniti, non ne parleremo sabato prossimo perché veramente non ne potrete più, vi diremo tutto di questa elezione e del futuro degli Stati Uniti, ma come potete immaginare non solo. Allora 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi SMS, ma anche per i vostri WhatsApp. Poi c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Cominciate anche a scaldare l'account di Twitter di Daniele Bellasio, che ho già visto aggirarsi in redazione per RadioTube, che inizierà alle 17. Stiamo parlando degli Stati Uniti anche nel nostro sabato del villaggio. Anche nel nostro sabato del villaggio sono un po' il filo conduttore. E allora per il prossimo blocco, per il prossimo argomento, non possiamo che cantare così. Till you spend half your life. Rimaniamo in tema americano anche per la nostra pagina dedicata ai consumi e alle nuove tendenze. Non si fa, secondo me, comunque fatica a trovare temi americani dando questo compito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. No, devo dire che non è stato difficile. Ciao. Anzi, Marta, forse è più difficile scegliere. Esatto. Perché? Un saluto a tutti. Tradizionalmente arriva di tutto. Esatto. E insomma, allora ho cercato un tema un po' più particolare e allora mi è venuta in mente la trasmissione in TV molto popolare, a volte mi ci sono anche persa, Pazzi per la spesa, sì, l'hai mai vista? Sì, sì, sì, quelli che facevano la spesa con gli sconti, esatto. Che è una cosa molto americana. Molto americana, i coupon, proprio è un'arte, l'arte appunto dei buoni sconto, sia cartacei, quindi da trovare, ritagliare nei vari volantini, nelle pubblicazioni delle grandi catene, accumulare e poi insomma strategicamente spendere nella maniera più opportuna, un'arte appunto molto americana ma che abbiamo importato anche in Italia, e quindi anche in Italia questo movimento dei coupon sta nascendo, anzi si sta sviluppando. Il punto di riferimento è la pagina Facebook Pazzi per la spesa, viva i buoni sconto, quasi 30.000 iscritti, quindi una delle community più nutrite, riunisce in pratica gli appassionati del genere che qui si scambiano informazioni e consigli per risparmiare al massimo attraverso i coupon. È una pratica appunto fatta di calcoli, Marta, calcoli anche super precisi, complicati, uh-huh, che permette non solo di risparmiare ma addirittura di guadagnare. Beh, interessantissimo. Io vado subito a controllare. Pazzi per la spesa, viva i buoni sconto, me lo segno. Esatto, ci siamo fatti però raccontare qualche segreto, perché bisogna proprio conoscere tutti i meccanismi, da Samantha Novelli, alias Lady Coupon, che è una delle prime professioniste della spesa, chiamiamoli così, in Italia, capace di utilizzare al meglio i buoni sconti. Ecco che cosa ci ha raccontato. Da 3 anni quasi faccio la spesa, sì, utilizzando questo sistema vantaggioso. A volte succede di risparmiare anche fino al 70% da quello che realmente dovevamo spendere. Avendo un volantino vantaggioso con dei prodotti che generalmente in famiglia si consuma, si riesce davvero a risparmiare tanto. Generalmente i siti si aggiornano una volta al mese, 2-3 al massimo, se si parla di siti generici che propongono più tipi di buoni sconto, sia alimentari che non. E poi quando esce un nuovo volantino ci si mette lì per bene, si guarda tutte le pagine per vedere se i prodotti per i quali abbiamo i buoni sconto sono anche in offerta al supermercato, perché il nostro scopo è questo, associare il buono sconto al prodotto già in offerta al supermercato. Io ho una pagina Facebook che si chiama Lady Coupon Samantha Novelli, dove nel post fissato in alto indico i principali siti dove potersi registrare per stampare buoni sconto. Ci sono molte promo che a volte consentono anche di guadagnare su quello che abbiamo speso in realtà. Cambia la maniera di gestione di tutto. Certo, non vado a comprare roba che comunque so che non consumiamo, però ci adattiamo. Vado dietro a quello che ormai mi propongono i buoni sconto, poi seguendo il gusto personale e tutto quanto, però si mangia anche quello che prima non si mangiava. Mi sono ritrovata in un gruppo con quasi 30.000 iscritti, quindi in Italia l'interesse c'è, reale e si vede. La tua casa è piena come quelle che si vedono nei programmi televisivi? Dunque, diciamo che ovviamente partecipando anche ai concorsi, sì, perché comunque si possono tipo ottenere dei buoni spesa a fronte di un acquisto di determinati prodotti, quindi ovviamente potendo fare più partecipazioni a testa si comprano più prodotti per poter partecipare più volte, quindi sì, diciamo ho una parte della mia casa apposta per mettere tutto quello che acquisto. Ma questa attività si è mai trasformata in un lavoro? Potrebbe? Ma me l'hanno chiesto in diversi, spero in qualche modo prima o poi che lo diventi. A meno che non sia già un lavoro questo di Lady Coupon, perché beh, lì mi sembra è notevole. Dalle tue domande venga fuori che lei davvero ci mette tanto tempo e tanto impegno. Ovviamente noi prendiamo i suoi consigli, certo, quelli che possiamo prendere. Divertente, una chicca scovata da Maria Luisa Pezzali. Invece sentiamo quelle che ha trovato per noi questa settimana Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao a tutti, eccoci qui, tema Stati Uniti, ecco. Io vi porto a New York perché ho vissuto tanti anni, un po' è la mia città. No, a me a Maria Luisa non piace per niente no, New guarda, York. No, noi non abbiamo mai nostalgia di non New York. Non sono già lì con la testa, no. Allora, intanto, visto che le elezioni americane sono a giorni, ho pensato anche che, e visto che c'è la direttrice di Vogue America, Anna Wintour, che consiglia Hillary Clinton su come abbigliarsi, mi sono detta forse qualcuno vuole sapere qual è lo stile newyorkese e si può anche acquistare, perché mi sono fatta un giro su internet e anche se non siete a New York nei prossimi giorni è possibile comunque comprare dai grandi classici newyorkesi, intanto risparmiando anche qualcosina. Intanto vi segnalo Barneys è un tempio di ricercatezza, è un department store veramente molto molto New York e la ricerca di brand eccetera l'ha sempre contraddistinto, oltre che le meravigliose vetrine. Però le vetrine magari non le possiamo vedere, ma andando sul sito Barneys Warehouse Site, quindi non il sito principale dove comunque i prezzi sono altissimi, sulla parte warehouse, che è un sito a parte, effettivamente si possono trovare degli ottimi sconti e mi sono assicurata che spedissero anche in Italia, quindi possiamo fare shopping un po' bene. Lì. Vogliamo spendere molto meno? Bene, c'è anche Target. Target invece è una catena di discount enorme, una delle principali degli Stati Uniti, che ha tutta una serie di chi che pensiamo che è stato il primo, prima che arrivasse H&M, eccetera, eccetera, a chiamare dei grandi designer per disegnare degli oggetti dove il design diventasse democratico. E quindi è proprio, come dire, una catena dove il discount si accompagna al fatto che comunque possiamo anche comprare delle cose sfiziose. Target ha addirittura la possibilità di una spedizione internazionale che sotto una certa cifra costa quasi nulla, perché ti fanno lo sconto e quindi di conseguenza grazie allo sconto di fatto non paghi la spedizione. Perfetto. Altro classico, se siete a New York andate, c'è Century 21, anche qui le marche sono... Io ho speso delle cifre. Immagino, perché effettivamente ti sembra tutto costi molto meno, cosa che di fatto è molto meno rispetto al prezzo iniziale, ovviamente, che non sempre parte dal bassissimo. Anche Century 21 ha un sito dove si può fare shopping. E tra l'altro vi segnalo, per chi vuole fare shopping in generale negli siti degli Stati Uniti, l'e-commerce, c'è un sito a sua volta che si chiama myus.com, che di fatto ti fornisce un indirizzo, tra virgolette, americano, laddove perché ci sono molti siti americani che chiedono, possono spedire solo in America, si chiedono l'indirizzo americano. Certo. Questo fa da connettore, ti dà l'indirizzo e poi la spedizione internazionale. Tra l'altro pare con un ottimo servizio, leggendo le review dei vari clienti che l'hanno utilizzato. Quindi non solo per Century 21, ma anche per altri, persino Walmart, facendosi l'account su MyUS si possono farsi spedire delle cose. Invece se siete a New York o anche a Los Angeles, penso più a New York perché di fatto la nostra, almeno noi che viviamo al nord, abbiamo una temperatura più adeguata. A Los Angeles fa sempre caldo, per cui grandi sandali e grandi vestiti scollati, che ahimè in questa temperatura non mi vengono proprio in mente. Bene, però andate sul sito di Racket, scritto proprio Racket, CK, e lì ci sono tutti i sample sale della città, sia di New York che di Los Angeles. Quindi se siete a New York e volete fare shopping, vi raccomando, non andate nei grandi negozi dove comunque per quanto sia costa tutto moltissimo, guardate i sample sale e fate pure un'experience newyorkese come se foste delle persone che vivono direttamente lì. Beh, un surrogato che per oggi può bastarmi nella mia nostalgia, perenne nostalgia newyorkese. Abbiamo citato lo stile di Hillary Clinton, ma vedevo qui sul sito di Century 21 c'è un cappottino di Ivanka Trump al 50% che non è male. Quindi vuol dire possiamo sia democratici che repubblicani. Assolutamente. Abbiamo trovato tutto. Siamo assolutamente equidistanti, possiamo tranquillamente shoppare da una parte all'altra. Verissimo, grazie a Cristina Lazzati, al prossimo sabato. Grazie a voi. E dopo questa botta di nostalgia per New York, Maria Luisa, l'appuntamento con Essere a Vere. Domani alle 22 per farcela passare. Ciao Marta. Ciao. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire in Formati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Il sabato del villaggio. E siamo ancora insieme per l'ultimo spicchio del sabato del villaggio. C'è un argomento al quale siamo molto affezionati al sabato del villaggio, del quale non abbiamo ancora parlato in questa puntata, e sono le serie TV. In questi giorni si parla tantissimo di questa serie TV di cui abbiamo una brevissima clip. Ce l'abbiamo? Eccola qua. In this world, we're all so caught up in our own heads. It's easy to lose sight of what's real. You said you don't know how much time there is. What does that mean? It's important that you realize there is a small medical procedure involved. A me viene già ansia anche a solo sentire qualche secondo di questa serie televisiva, che era attesissima, è la sua terza stagione, una serie di Netflix, quindi non diciamo che va in onda o a che episodio siamo, è la terza stagione, ce l'abbiamo tutta intera, molta ansia, perché stiamo parlando di Black Mirror. Io non ho ancora visto niente e quindi chiamo in causa uno dei nostri esperti preferiti del sabato del villaggio, critico televisivo e cronista anche per TV Sorrisi e Canzoni, ma una importante personalità anche della rete con lo pseudonimo di Checkoz. Buonasera Francesco Chignola, ciao Francesco! Ciao, buon pomeriggio. Ti piace personalità della rete con lo pseudonimo di Checkoz? Bellissimo. Faccio fare i biglietti da visita subito appena chiudo il telefono. Esatto. Allora, Black Mirror, terza stagione, sì. Grande ansia perché è una... Allora, io ho paura soprattutto delle serie, dei programmi televisivi, della TV... che sì, mi fanno vedere delle cose spaventose, ma soprattutto delle cose reali. E Black Mirror ci mette in scena i nostri incubi più reali e più realizzabili. È ancora così? Sì, perché se pensi proprio il titolo secondo me è geniale. La serie c'è da, come dicevi tu, da qualche anno, questa è la terza stagione, è nata 5 anni fa, e il titolo Black Mirror è lo schermo nero. Lo schermo nero che cos'è? Quando noi abbiamo il telefono in mano, l'iPhone o il tablet in mano, il televisore spento, quello è lo schermo nero, chiaramente il nostro riflesso, lo specchio nero, il nostro riflesso in questo specchio è chiaramente distorto dall'uso che ne facciamo. Questo è il motivo per cui è stato scelto questo titolo, e effettivamente il tema ricorrente di questa serie è il nostro rapporto con la tecnologia e soprattutto il nostro futuro rispetto all'uso che facciamo delle tecnologie e all'abuso che facciamo delle tecnologie. Quindi sì, parla tantissimo di noi, ma lo fa sempre in modo molto sorprendente e molto angosciante, come dicevi tu. Io solo a sentire quei suonini, infatti, i rumorini, sono i suonini. Che i suonini della sigla, io sento quel rumore di vetro che si rompe e io già non dormo la notte. Devo dire che la cosa bella del fatto che Netflix ha appunto commissionato questa terza stagione è prima di tutto che abbiamo visto sei nuovi episodi, che alcuni criticano, secondo me sono tutti molto belli, quale più, quale meno, ma anche che possiamo andare a recuperare quelli vecchi, che sono pochi, ma sono veramente pazzeschi. La cosa bella di questa serie è che è un po' la continuazione ideale di quello che era una volta Ai confini della realtà, oppure esatto, stories, esatto. Cioè delle serie che sono antologiche, in cui ogni episodio crea un mondo che poi si conclude. È un mondo molto complesso, è una storia che ha spesso, diciamo, non un finale a sorpresa, comunque dei risvolti sorprendenti rispetto alla sua premessa. Francesco, in questi giorni sui social vedo sempre citato San Giunipero. Esatto, no, l'ho citato per un motivo, perché è un capolavoro. Ah, ok. Allora, ok. Se uno, il mio consiglio è di vederli uno dietro l'altro, perché chiaramente è bello poi godersi anche le differenze che ci sono anche di stile tra uno e l'altro, sono tutti fatti da registi diversi, quindi con anche con un'idea insomma grafica diversa, però San Junipero è proprio un pezzo di televisione che era tanto tempo che non vedevo, così bello, così emozionante. È la storia di due ragazze che si incontrano in questo paesino sulla costa, degli anni, in questo posto che sembra una specie di parodia di un sunto degli anni Ottanta, e poi succedono delle cose che ti fanno capire che insomma tutto non è quello che sembra, come sempre, però non ti posso raccontare di più. È veramente commoventissimo, super struggente. Anche lì si parla comunque di una possibile tecnologia futura che ci potrà far fare una cosa che ora non si può fare, e altri episodi invece sono più legati al presente, cioè sono ambientati nel presente, qualcosa che potrebbe succedere adesso. Per esempio c'è un episodio che si intitola Zitto e Balla, che è tra l'altro un'ammazzata nello stomaco, in cui un ragazzino viene ricattato da un personaggio che gli manda dei messaggi e lo costringe a fare delle cose, a fare una rapina, e poi scopre che in realtà c'è tutta una rete di persone che vengono ricattate da questi troll che si firmano con la faccia del troll che gira molto su internet. Insomma, anche questo praticamente potrebbe essere ambientato domani. Certo, per esempio. Ti dico solo che poco fa mi è partito la suoneria di un messaggio, perché mi sono dimenticata la suoneria, mi è partito un WhatsApp e mi sono spaventata, cioè mi fa talmente paura parlare di Black Mirror che sono saltata sulla sedia. No, non ce la posso fare. Sì. Guarda, ti dico, San Junipero in sé non fa tanta paura, anzi è molto riscaldato. No, molto, ma caldo. Ecco, per chi non avesse mai visto Black Mirror, vorrei chiarire che non sono paurose nel senso di thriller o di ammazzamenti. No, sono proprio i nostri incubi. Reali? Ce ne sono un paio che fanno abbastanza paura. Beh, anche qualcosa sì, sì. Quando guarderai questi sei nuovi okay. episodi, ti invito a sederti ben salda la poltrona e ma infatti voglio ecco voglio vedermi con calma nello spirito giusto. Senti, vorrei invece chiederti di un'altra serie di Netflix, perché sì. È appena uscita, è appena stata così messa in rete, The Crown, attesissima. Sì. Regina d'Inghilterra, reali inglesi, com'è? Dimmi che allora, bella. Io sto aspettando il tempo di mettermi giù, usare la buona parte di questo weekend per farmi qualche episodio di questo The Crown, che anch'io aspettavo con molta ansia. In realtà io ero abbastanza curioso, ma non eccessivamente, perché spesso e volentieri questo tipo di operazioni non mi sono piaciute. Per esempio c'è stata una inglese recente sulla Regina Vittoria che secondo me era fatta abbastanza male. In realtà mi sono letto, sono avuto il tempo di leggermi un po' di recensioni e la gente sta impazzendo per The Crown. Pare che sia veramente una roba incredibile. Comunque ha un pedigree notevole, perché il creatore della serie, Peter Morgan, è quello che scrisse The Queen, uno che di regina insomma ne sa abbastanza. E la cosa bella è che tutto questo progetto non si ferma a questi 10 episodi che sono disponibili da ieri, ma è un grandissimo progetto che conta di raccontare probabilmente tutta la storia della regina Elisabetta II, perché saranno 6 stagioni. Urca. Da 10 episodi l'una, quindi ne avremo per altri 5 anni. Beh, più una soap opera quasi, bellissima. Esatto, ma la cosa bella, una delle cose belle di questo nuovo sistema di televisivo, per cui le serie vanno tutte insieme, eccetera, che insomma gli ascolti non importano, certo. Importa più la ricezione del prodotto, quindi non è che rischiano di essere cancellati. Ciao, ce le faremo tutte 60 queste puntate. Infatti, allora al 349-238-6666 Nicola ci consiglia Narcos, un gran classico, Ray Donovan e Penny Dreadful. Sì. E invece c'è un ascoltatore che via Penny WhatsApp... Dreadful, tu hai paura, sì. Penny Dreadful te lo sconsiglio perché... No, infatti non è la mia. Sì. C'è un ascoltatore che via WhatsApp ci ha mandato uno di quei, sai, di quei cartelli che fanno molto ridere. Voi la fate facile a dire fatti una vita. Sì, certo, poi rimango indietro con gli episodi dei telefilm, non diciamo cazzate. Dai, è vero, hai ragione. Ascoltatore anonimo, hai colto nel segno. Francesco, ci consigli una chicca? Qualcosa? Tu hai sempre qualcosa che ci puoi far scoprire? Sì, allora io una delle cose che ho iniziato a scoprire nelle ultime settimane, io sono un grande appassionato di una serie che magari qualcuno conoscerà, famosissima in Inghilterra, che si chiama Doctor Who. Mm-hmm. In Italia va in onda su Rai 4, ma non nutrito seguito di fan anche qui. Nella sua storia lunghissima, Doctor Who, più di 50 anni che va in onda nel Regno Unito, ha avuto diversi spin-off, cioè serie nate da personaggi minori o serie che sono ambientate nello stesso universo narrativo, e da 2 o 3 settimane è iniziata in Inghilterra un altro spin-off che si chiama Class, e secondo me insomma, gli appassionati di questa serie, ma di questo genere, diciamo fantascientifico, viaggi nel tempo, alieni e cose del genere, insomma, ci andranno a nozze, perché sono, i protagonisti sono dei ragazzi, dei giovani che hanno a che fare con questo posto in cui vanno a scuola, loro diventa un portale dove arrivano della gente dagli altri pianeti, da altre dimensioni, loro devono scontrarsi con questa cosa, ma in realtà va in onda, non va in onda su BBC One, che è, diciamo, la nostra Rai 1, ma va in onda su BBC 3, che è un canale online molto sperimentale, quindi diciamo un po' più violento, un po' più sexy, molto dark. È una serie che secondo me già la fa molto discutere, e insomma, gli appassionati di Doctor Who non possono perdersela per niente. Grazie Francesco. C'è un ascoltatore, ma forse un'ascoltatrice, che ci chiede perché non parliamo mai di Grey's Anatomy, perché magari andiamo a cercare un po' le cose nuove. Grey's Anatomy è un classicone, però magari qualche volta, Francesco, parliamo anche di classici, se ti va. Andiamo a... va bene, una volta. Dai, facciamo un intervento solo sui classici, solo sui classici, perché possiamo anche parlare di, per mezz'ora, di Lost. Va benissimo. Ah, va bene. Va bene. Grazie a Francesco Chignola, TV Sorrisi e Canzoni, ma anche Chiocciola Checkoz è il nostro modo per contattarlo, così con rapidità ed efficienza, su Twitter. Grazie Francesco, al prossimo appuntamento insieme. Grazie. Ciao Marta, ciao. Sempre grazie a Francesco Chignola, che ha sempre queste chicche sulle serie televisive, argomento che non lasciamo mai al Sabato del Villaggio, perché appunto ci appassiona moltissimo. Adesso però è il momento di dare la linea al giornale radio delle 17, io mi sbaglio sempre perché sono le 16.45, quindi il prossimo è quello delle 17, ma poi saremo insieme ancora in diretta per un'ora al Sabato del Villaggio, che come sapete dopo il giornale radio si trasformerà in RadioTube.